cercai, per tutta la durata del pranzo, un pretesto grazie al quale Saint Loup potesse chiedere a sua zia di ricevermi senza attendere il suo ritorno a Parigi. Ora, il pretesto mi fu fornito dal desiderio di rivedere alcuni quadri di Elstir, il grande pittore che Saint Loup e io avevamo conosciuto a Balbec, pretesto nel quale, d'altronde, non mancava un fondo di verità, dal momento che, mentre nel corso delle mie visite a Elstir avevo chiesto alla sua pittura di aiutarmi a capire e ad amare cose che per importanza la trascendevano, un vero disgelo, un'autentica piazza di provincia, delle donne in carne e ossa sulla spiaggia. Al massimo, gli avrei commissionato il ritratto delle realtà che non avevo saputo approfondire, per esempio un sentiero di biancospini, non perché me ne conservasse la bellezza, ma perché me la svelasse. Adesso erano l'originalità, la seduzione dei suoi dipinti a eccitare il mio desiderio, e ciò che soprattutto volevo vedere erano altri quadri di Elstir. Mi sembrava, d'altra parte, che anche i suoi quadri minori fossero qualcosa di diverso dai capolavori di artisti magari più grandi di lui. La sua opera era una sorta di regno chiuso, dalle frontiere invalicabili, dalla materia incomparabile. Raccogliendo avidamente le rare riviste dove erano stati pubblicati degli studi su Elstir, avevo appreso che solo da poco si era messo a dipingere paesaggi e nature morte, mentre aveva esordito con soggetti mitologici, due dei quali avevo visto riprodotti in fotografia nel suo atelier, e aveva poi lungamente subito l'influsso dell'arte giapponese. Alcune opere tra le più tipiche delle sue varie maniere si trovavano in provincia. Una certa casa di Les Andelys, che ospitava uno dei suoi paesaggi più belli, m'appariva altrettanto preziosa, mi ispirava un desiderio di viaggiare altrettanto vivo quanto un villaggio dei dintorni di Chartres, nella cui pietra molare è incastonata una gloriosa vetrata. E verso il possessore di quel capolavoro, verso quell'uomo che in fondo alla sua casa grossolana affacciata sulla via principale, segregato come un astrologo, interrogava uno di quegli specchi del mondo che sono i quadri di Elstir e aveva forse sborsato per averlo parecchie migliaia di franchi, mi sentivo attratto dalla simpatia che unisce finanche i cuori, finanche i caratteri di coloro che la pensano come noi su un tema fondamentale. Ora, tre opere importanti del mio pittore preferito erano indicate in una di quelle riviste come appartenenti a Madame de Guermantes. Fu con sincerità, insomma, che potei quella sera in cui Saint Loup mi aveva parlato del viaggio della sua amica a Bruges, buttargli lì durante il pranzo, davanti ai suoi amici, come se stessi improvvisando: «Senti, posso dirti una cosa? Ultimo capitolo della nostra conversazione è sulla nota signora. Ti ricordi di Elstir, il pittore che ho conosciuto a Balbec?» «Ma come no, naturalmente. Ricordi la mia ammirazione per lui?» «Perfettamente, il biglietto che gli abbiamo fatto consegnare.» «Ebbene, una delle ragioni, non fra le principali, una ragione accessoria, per cui desidero conoscere la signora in questione, sai sempre quale intendo?» «Ma sì, quante parentesi!» «Il fatto è che in casa sua ci deve essere perlomeno un bellissimo quadro di Elstir.» «Toh, non lo sapevo!» «Per Pasqua Elstir sarà sicuramente a Balbec. Sapete che adesso passa quasi tutto l'anno sulla costa. Mi sarebbe piaciuto molto vedere quel quadro prima di partire. Non so se siete abbastanza in confidenza con vostra zia. Non potreste, facendomi abilmente brillare i suoi occhi in modo che non rifiuti, non potreste chiederle che mi lascia andare a vedere il quadro anche senza di voi, visto che voi non ci sarete?» «Intesi, ne rispondo per lei, me ne occupo io.» «Robert, come vi voglio bene.» «Siete molto caro a volermi bene, ma lo sareste anche se mi deste del tu, come avevate promesso e come avevi cominciato a fare.» «Spero che non sia a proposito della vostra partenza che state complottando», mi disse un amico di Robert. «Sapete, se Saint Loup va in permesso non deve cambiare nulla, ci siamo sempre noi. Per voi forse sarà meno divertente, ma ce la metteremo tutta per cercarvi di farvi dimenticare la sua assenza. In effetti, eravamo ormai convinti che l'amica di Robert sarebbe andata a Bruges da sola, quando si diffuse la voce che il capitano di Borodino, fino allora contrario, aveva fatto rilasciare al sottufficiale Saint-Loup un lungo permesso per Bruges. Ecco com'erano andate le cose. Il principe, assai fiero della sua opulenta capigliatura, era cliente assiduo del miglior parrucchiere della città, un tempo garzone dell'ex parrucchiere di Napoleone III. Il capitano di Borodino era in ottimi rapporti con questo parrucchiere, giacché, a dispetto dei suoi modi maestosi, trattava affabilmente le persone modeste. Ma il parrucchiere, con il quale il principe aveva un conto arretrato di almeno 5 anni, che flaconi di Portugal, di Eau de Souverain, i ferri, i rasoi, le caramelle contribuivano ad impinguare non meno dei tagli dei capelli con relativo shampoo, teneva in maggiore considerazione Saint-Loup, che lo pagava sull'unghia e aveva parecchie vetture e cavalli da sella. Saputo del dispiacere di Saint-Loup per non poter fare quel viaggio con l'amante, il parrucchiere ne parlò calorosamente al principe nel momento in cui questi, strettamente avvolto in una cotta bianca e con la testa rovesciata all'indietro, gli offriva la gola. Il racconto delle avventure galanti del giovanotto strappò al capitano principe un sorriso di bonapartesca indulgenza. È poco probabile che egli abbia pensato al conto da pagare, ma quanto la raccomandazione d'un duca lo indisponeva, altrettanto quella del parrucchiere lo metteva di buon umore. Accordò il permesso mentre aveva ancora il mento coperto di schiuma e la sera stessa lo sottoscrisse. Quanto al parrucchiere, che di solito non finiva mai di vantarsi e per poterlo fare si attribuiva con un'eccezionale faccia tosta prestigi inventati di sana pianta, per una volta che rese a Saint-Loup un servizio speciale, non solo non batté la gran cassa del suo merito, ma, come se la vanità avesse bisogno di mentire e, mancandole questa possibilità, lasciasse il posto alla modestia, non ne fece mai più parola a Robert. Tutti gli amici di Robert mi assicurarono che fin quando fossi rimasto a Doncier e in seguito, ogni volta che avessi voluto ritornarci, in assenza di Saint-Loup, le loro carrozze, i loro cavalli, le loro case, le loro ore di libertà sarebbero state a mia disposizione. E io sentivo con quanta sincerità essi mettevano i propri mezzi, la propria giovinezza, il proprio vigore al servizio della mia debolezza. E del resto, ripresero gli amici di Saint-Loup dopo aver insistito per farmi rimanere, perché non tornare qui ogni anno? Vedete bene che vi piace il nostro piccolo tran tran. Vi interessate persino alla vita del reggimento, come un anziano. Infatti, continuavo a chiedere avidamente che mi classificassero i diversi ufficiali, che conoscevo solo per nome, a seconda della maggiore o minore ammirazione di cui li ritenevano meritevoli, così come un tempo, a scuola, chiedevo ai compagni di farmi la classifica degli attori del Théâtre Français. Se al posto d'un generale, che sentivo sempre citare al di sopra di ogni altro, Galifet o Négrier, un amico di Saint-Loup dicendo «Ma Négrier è un generale fra i più mediocri», buttava là il nome nuovo, intatto e saporito di Pau o di Gueslin de Bourgogne, provavo la stessa lieta sorpresa di quando, allora, i nomi troppo sfruttati di Tiron o di Fèvre venivano ricacciati sullo sfondo dallo sbocciare improvviso del nome inusitato di Amaury. «Superiore allo stesso Négrier? Ma in che cosa? Fatemi un esempio!» Avrei voluto che esistessero differenze profonde anche fra gli ufficiali subalterni del reggimento e speravo di cogliere nella ragione di queste differenze l'essenza della superiorità militare. Uno di quelli di cui più mi sarebbe piaciuto sentir parlare, perché era quello che avevo visto più spesso, era il principe di Borodino. Ma Saint-Loup e i suoi amici, pur rendendo giustizia al bell'ufficiale che assicurava al proprio squadrone una tenuta incomparabile, non amavano l'uomo, anche se, evidentemente, non parlavano di lui col tono che riservavano certi ufficiali venuti dalla gavetta e massoni, i quali non frequentavano i colleghi e conservavano, davanti a loro, un selvatico aspetto marescialesco, sembrava che non collocassero il signor di Borodino nel novero degli altri ufficiali nobili, dai quali, per la verità, anche nei confronti di Saint Loup, egli differiva alquanto per atteggiamento. Quelli, approfittando della circostanza che Robert era soltanto sottufficiale e che la sua potente famiglia poteva dunque essere contenta se egli veniva invitato in casa di qualche superiore cui, altrimenti, non si sarebbe mai abbassata, non perdevano occasione d'averlo alla loro mensa quando vi si sedeva qualche pezzo grosso che potesse riuscire utile a un giovane maresciallo d'alloggio. Il capitano di Borodino era l'unico ad avere con Saint Loup dei semplici rapporti di servizio, peraltro eccellenti. Il fatto è che il principe, il cui nonno era stato creato maresciallo e principe duca dall'imperatore, alla famiglia del quale si era poi imparentato per via di matrimonio e il cui padre aveva sposato una cugina di Napoleone III ed era stato per due volte ministro dopo il colpo di Stato, aveva ciò nonostante la sensazione di non rappresentare granché agli occhi di Saint Loup e del Giro Germant, i quali a loro volta, per lui che non vedeva le cose dal loro stesso punto di vista, contavano ben poco. Sospettava di essere per Saint Loup, lui che era imparentato con gli Hohenzollern, non un vero nobile ma il nipote di un fittavolo, e da parte sua considerava Saint Loup come il figlio di un tale la cui contea era stata confermata dall'imperatore, quella che nel Faubourg Saint-Germain veniva chiamata una contea rifatta, e che ne aveva sollecitato una prefettura, poi un certo altro posto di rango, tutt'altro che elevato, agli ordini di Sua Altezza il principe di Borodino, ministro di Stato, cui ci si rivolgeva per iscritto chiamandolo Monsignore e che era nipote del sovrano. E forse più che nipote. Si diceva che la prima principessa di Borodino avesse avuto un debole per Napoleone I, che seguì all'isola d'Elba, e la seconda per Napoleone III. E se il placido volto del capitano ricordava non proprio i lineamenti naturali ma la studiata maestà della maschera di Napoleone I, nella sua fisionomia, soprattutto nello sguardo malinconico e bonario nei baffi spioventi, c'era qualcosa che faceva pensare a Napoleone III, e in modo così evidente che quando, dopo Sedan, avendo chiesto di poter raggiungere l'imperatore, venne condotto davanti a Bismarck, questi, una volta congedatolo, alzando per caso gli occhi sul giovane che già stava per allontanarsi, rimase folgorato dalla somiglianza, lo richiamò e, ricredendosi, gli concesse l'autorizzazione che un attimo prima gli aveva rifiutata, come a tutti gli altri. Se il principe di Borodino non voleva fare avance né a Saint Loup né agli altri esponenti del Faubourg Saint-Germain che militavano nel suo reggimento, mentre invitava di frequente due tenenti di estrazione plebea, persone peraltro gradevoli, era perché, considerandoli dall'alto della sua grandezza imperiale, distingueva i suoi subalterni in due categorie: gli inferiori, che si sapevano tali e con i quali era deliziato di intrattenere rapporti, essendo, sotto le apparenze maestose, un uomo d'umore semplice e gioviale, e gli inferiori che si credevano superiori, cosa per lui inammissibile. Così, mentre tutti gli ufficiali del reggimento facevano grandi feste a Saint Loup, il principe di Borodino, cui Robert era stato raccomandato dal maresciallo di Aix, si limitò a usargli delle cortesie in questioni attinenti al servizio, in cui Saint Loup era d'altronde inappuntabile, ma non lo ricevette mai in casa sua, eccettuata una circostanza particolare nella quale fu in qualche modo costretto ad invitarlo, e poiché essa si verificò durante il mio soggiorno, gli disse di farsi accompagnare da me. Mi fu facile, quella sera, osservando Saint Loup alla tavola del suo capitano, discernere fin nei modi e nell'eleganza di ciascuno di loro la differenza fra le due aristocrazie, la nobiltà antica e quella dell'impero. rampollo di una casta i cui difetti, sebbene li ripudiasse con tutta la sua intelligenza, gli erano passati nel sangue e che, avendo smesso da almeno un secolo di esercitare un'autorità effettiva, considera ormai la cortesia protettrice alla quale è stata educata alla stregua di un esercizio come la scherma o l'equitazione, coltivato senza alcun fine serio per divertimento nei confronti dei borghesi che essa disprezza a sufficienza per credere che la sua familiarità li lusinghi e che il suo anticonformismo li riempirebbe d'orgoglio, Saint-Loup stringeva amichevolmente la mano di qualsiasi borghese gli presentassero, magari senza neppure averne registrato il nome, e conversando con lui, senza mai smettere di accavallare le gambe, raddrizzarle, rovesciarsi scompostamente all'indietro, afferrarsi un piede con una mano, lo chiamava «mio caro». Esponente, al contrario, di una nobiltà i cui titoli conservavano intatto il loro significato, corredati come erano tuttora di ricchi maggioraschi a ricompensa di gloriosi servigi prestati e il ricordo di alte funzioni che comportano il comando sopra molti uomini e ne richiedono la conoscenza, il principe di Borodino era portato, se non in modo chiaro e distinto nella coscienza, perlomeno nel corpo, che lo dava a vedere con gli atteggiamenti e i modi, a considerare il proprio rango come un'autentica prerogativa. Agli stessi plebei, cui Saint-Loup avrebbe battuto sulla spalla o afferrato il braccio, lui si rivolgeva con un'affabilità maestosa nella quale un riserbo pieno di grandezza temperava la sorridente bonomia che gli era naturale, in un tono improntato insieme a una benevolenza sincera e a una voluta alterigia, il che aveva senz'altro a che vedere col fatto che egli era meno distante dalle grandi ambasciate dalla corte, dove suo padre aveva rivestito le più alte cariche e dove i modi di Saint-Loup, gomito sul tavolo e piede fra le mani, sarebbero stati male accolti, ma soprattutto col fatto che quella borghesia, lui, la disprezzava meno, perché era il grande serbatoio da cui il primo imperatore aveva preso i suoi marescialli, i suoi nobili, e il secondo aveva pescato un foldo o un rouer.